escribir. Benissimo, siamo rientrati in diretta, sempre collegati, siete collegati in onda su Radio Città del Capo e in particolare su 451 Frammenti Sonori, puntata d'esordio per il 2012, prima puntata dunque oggi che ormai è il 9 gennaio 2012, seconda parte appena iniziata dopo che la prima parte si era dipanata tra le 23.35 e la giornata di oggi fino a mezzanotte e mezza circa. Puntata che ricordiamo per coloro che si fossero messi casualmente, inaspettatamente e non volutamente in collegamento con la radio, puntata dedicata ai giocattoli sonori. È la seconda puntata, potremmo dire, dato che la prima parte l'abbiamo già realizzata un anno e mezzo fa e questa è la continuazione con una declinazione che ho voluto costruire con voci, rumori, deliri animati e aspetti surrealisti, perché soprattutto la prima parte ha visto in campo autori, musicisti che si rifanno molto come metodo e attitudine al surrealismo. Abbiamo aperto con Little Bang Theory e poi siamo passati a Eugene Chatburn per passare poi al progetto collettivo DDAA e per chiudere con Gilles Gobel, che è stato ovviamente un po' sacrificato per l'ingresso di Radio Popolare Network, dunque siamo ripartiti con il brano che era stato tranciato, l'abbiamo riascoltato da Le Contrat, disco uscito nel 2003, con un gatto che appunto suona insieme a Gilles Gobel, fa la sua bella figura con un finale, con una sorta di miagolio, un urlo che chiude la sua interpretazione musicale. Con Gilles Gobel abbiamo riaperto e abbiamo fuso il brano musicale, chiaramente tributario di una certa elettroacustica, con un altro autore che da un po' di tempo mancava a 451, uno degli autori più interessanti sulla scena elettronica e per certi versi rumorista, noise, anche se con riferimenti non certamente legati alla scena rumorista americana che tante volte abbiamo trattato. È un'altra cosa, siamo nel terreno elettronico, si tratta di Raglani, che abbiamo anche potuto ascoltare e visionare nel suo delirio circa, penso, 3 o 4 anni fa a Bologna. Personaggio americano nato a St. Louis è rimasto per parecchio tempo in questa città per portare avanti appunto questi droni molto rumoristi e con dimensioni sonore che si rifanno molto a detta di Raglani, a grandi registi come Werner Herzog e Jean-Luc Godard, cui lui si ispira moltissimo, oltre che gli aspetti musicali molto riferiti alla space rock, ma anche al noise. In particolare l'assessore Graner ha citato il Nars & Thund e Cluster, e in particolare per l'aspetto più squisitamente rumorista Merzbow, che insomma spesso naviga sulle frequenze di 451 Frammenti Sonori. Abbiamo ascoltato questo brano che ha un aspetto sicuramente molto giocoso, molto giocattoloso nel suo rumorismo, e un disco che è uscito nel 2009, Web of Light, un EP molto interessante che chiude oltretutto, dopo due brani squisitamente di matrice rumorista, verso invece questo sottofondo che sentite anche adesso, molto più ambient drone, seppur sempre con questi suoni, questi rumorini, con le sue apparecchiature elettroniche, anche una ricerca da parte di Raglani verso strumentazioni abbastanza retro tra gli anni 60 e 70, che lui è riuscito a recuperare, poi manipolare, a autocostruire, a riassemblare per creare suoni, rumorini quasi viventi, quasi appunto oggetti che ricordano il giocattolo autosuonante che abbiamo invece intercettato soprattutto con la formazione Little Bang Theory, che ha aperto la trasmissione, la prima parte della trasmissione di stasera. Dunque, dopo l'apertura di questa seconda parte attraverso Gilles Gobeil e questo mix con Raglani, ci andiamo a spostare in terra di Francia, dagli Stati Uniti, e andiamo a trovare l'autore che avevo citato nella prima parte della puntata, riferendomi proprio a Gilles Gobeil. Gilles Gobeil collabora, seppur canadese, ha collaborato e collabora tuttora con questo autore che è stato anche il suo maestro, essendo un grande della musica sperimentale elettronica e anche della musica concreta, ha lavorato per anni con il grande Pierre Schaeffer. Si tratta di Michel Kion, che non credo abbiamo mai intercettato, inserito probabilmente proprio senza nessuna volontà, ma proprio per il fatto di non esserci mai imbattuti in percorsi sonori che potevano anche far inserire le opere e le sperimentazioni di questo grande compositore. Michel Kion, che ha già compiuto 65 anni ed è stato appunto molto importante anche per quanto riguarda la radio francese, la televisione francese, per gli aspetti proprio sonori, musicali, per le ricerche sonore che ha portato avanti attraverso il Conservatorio Nazionale di Parigi, ma attraverso anche altri istituti importanti, sempre francesi ma anche americani, dove ha collaborato per le ricerche elettroniche. E appunto la cosa molto importante di questo grande autore, che appunto ha collaborato strettamente con Schaeffer e ha anche scritto delle partiture per Pierre Henry, per François Bayle, e dunque grandi, grandissimi compositori, oltre al fatto che ha anche costruito e gli è stato commissionato da due grandi registi. E qui ritorniamo casualmente, devo dire, perché non era assolutamente prevista o calcolato questo tipo di collegamento, andiamo anche a trovare ad esempio Jacques Tati, per il quale Michel Kion ha scritto delle partiture musicali per i suoi film, e addirittura, questa è una cosa interessante, anche David Lynch, che ha commissionato delle partiture musicali, delle sonorizzazioni allo stesso Michel Kion. Grande, grandissimo, direi, compositore, musicista, sperimentatore, che ha anche questo aspetto molto giocoso e delirante in alcune sue composizioni. In particolare emerge nella sperimentazione, soprattutto attraverso l'utilizzo delle voci, del parlato, e dunque anche una ricerca rispetto all'aspetto più così squisitamente definito in inglese spoken word, nel disco che andremo ad ascoltare, Dictact, un lavoro molto molto interessante per la ricerca sonora che ha portato avanti, uscito recentissimamente alla fine del 2010 per la Noon Records, un doppio CD, dove appunto la sperimentazione si mischia anche a un aspetto comunque giocoso e riferibile per certi versi al giocattolo sonoro, inteso anche e soprattutto nella manipolazione e nell'utilizzazione e nel trattamento della voce, delle voci chiaramente campionate, registrate, utilizzate attraverso nastri, ma non solo, anche attraverso strumentazioni più squisitamente digitali. Andiamoci a sentire dunque, ancora attraversando l'aspetto dei voci, dei rumori, dei campionamenti animati, l'aspetto del giocattolo sonoro elaborato, concepito e studiato dal grande compositore Michel Kion. Dictat, il disco uscito nella fine del 2010. Buon ascolto. Qu'est-ce que moi je sais qu'il y a ici? On ouvrira beaucoup. Kužis gyvri garaži. Eiko. Krūvžnyskis. Krūvžnyskis. Krūvžnyskis. Krūvžnyskis. Krūvžnyskis. Krūvžnyskis. Krūvžnyskis. Krūvžnyskis. Krūvžnyskis. Окружней вас, товарищ. Эска. Ура. Крышки базы. Крышки базы. Кружение. Ah, bis auf Sono morto da ridere anch'io, grandissimo Michel Kion, un pezzo veramente geniale. Qualcuno storcerà il naso perché dirà che delirio, però la composizione risulta assolutamente perfetta e anche piuttosto complessa nella elaborazione sonora, e soprattutto sonora, ma attraverso questo incrocio di voci, gorgheggi, sperimentazioni vocali, pernacchie e suoni assurdi che è riuscito bene a manipolare ed incastrare con questo pupazzetto poi finale, che mi ricorda un pupazzetto che avevo da piccolo, era, mi pare, l'Orso Yogi in plastica, faceva questo suono, però me lo ricordo bene. Effettivamente mi divertivo anch'io a giochicchiare un po' con questo pupazzetto, e devo dire che Michel Kion entra proprio perfettamente dentro il discorso del giocattolo, della musica, anche come giocosità, come gioco. E appunto mi ricordo sempre questa frase che disse il grande, a me non piace fare il citazionista, anche se spesso purtroppo siamo costretti anche a diventarlo, perché in una trasmissione radiofonica devi comunque collegare autori, musicisti, riferimenti, per cui alla fine si diventa anche citazionisti non volendo, ma dovendo appunto fare i collegamenti, cercando di costruire una ragnatela di connessioni. Ma appunto in questo caso faccio proprio citazionista, perché mi ricordo una frase che disse il grande Carmelo Bene, che la cosa che a lui affascinava era il gioco, ma non lo scherzo. Molti confondono lo scherzo, che appunto lui diceva è adulto ed è pieno di malizia, di costruzioni che tende appunto a distruggere, invece l'atteggiamento, l'attitudine del gioco, che invece deriva proprio dall'aspetto più limpido e più puro del bambino, e senza nessun tipo di aspetto malizioso, senza nessun secondo fine, senza nessun altro tipo di obiettivo. E qua il gioco è perfettamente dentro le corde di questo grande compositore Michel Kion, che ha veramente spaziato in universi musicali e sperimentali enormi. Adesso sentiamo un'altra composizione che è molto, ma molto differente, rientra molto più dentro il concetto di musica contemporanea, mentre appunto il brano che abbiamo selezionato era perfettamente rispondente dentro le corde proprio della trasmissione di stasera. Da Michel Kion andiamo a trovare un altro francese molto più giovane, tra virgolette, perché poi non è neanche giovanissimo, ma si è diciamo esposto sulla scena musicale degli anni 90, che è stato un maestro della costruzione di strumenti e di vere e proprie installazioni sonore e di oggetti autocostruiti, che attraverso meccanismi meccanici costruivano appunto delle composizioni, delle sonorizzazioni. Abbiamo avuto anche il piacere, il buon Max, circa 10, 12, 13 anni fa mi pare, nel vecchissimo Link, ad aver avuto la grande soddisfazione di vederlo all'opera in un concerto e in un'installazione permanente che era assolutamente geniale. Parliamo di Pierre Bastien, che ritorna dopo un bel po' di tempo all'interno dei 451 frammenti sonori. Anni fa l'abbiamo inserito parecchie volte, abbiamo dunque ritrovato nella sua idea magnifica e geniale dell'orchestra di Meccano, proprio di il Meccano, ve lo ricorderete, qualcuno che è un po' vicino alla mia età, era un giocattolo, un gioco estremamente stimolante, estremamente interessante per lo sviluppo delle capacità di costruzione, di assemblamento. Ecco, lui ha costruito un'orchestra di Meccano che appunto poi costruiva e realizzava percorsi sonori. Ecco, Pierre Bastien all'interno di questa trasmissione cade assolutamente, come si suol dire, a fagiolo, e abbiamo selezionato un disco uscito per il 2005, perché è uscito paradossalmente per un'etichetta con cui lui non ha mai lavorato, ma che ha realizzato solo questo unico album, uscito appunto nel 2005, Pop, per la Reflex, l'etichetta storica neanche tanto, ma piuttosto importante degli ultimi 15 anni di Aphex Twin. La Reflex dunque fa uscire questo lavoro e si sentono delle cose che possono richiamare anche una certa, ovviamente, attitudine che ha attraversato Aphex e tutta la scena della Reflex, appunto l'aspetto giocoso, delirante e provocatorio. E si sentono anche comunque delle strutture che, seppur Bastien riproduce abbastanza dentro la linea, il percorso musicale che lui ha portato avanti dagli anni 90, si sentono delle cose che secondo me riflettono effettivamente la mano della Reflex, più legata all'aspetto elettronico, mentre Bastien lavora, non dico esclusivamente perché sarebbe assurdo, ma lavora prevalentemente con strumenti elettroacustici. Invece l'aspetto elettronico qua emerge almeno per l'aspetto, e non solo, ma soprattutto per l'aspetto legato all'attitudine strutturale. Andiamoci a sentire dunque il personaggio Pierre Bastien con la sua orchestra di Meccano e i suoi strumenti autocostruiti dentro Giocattoli Sonori, Pop, e l'album 2005. Thank you. Thank you. recording now. I'm just now with the microphone, right? E siamo rientrati in diretta, abbiamo mixato il lavoro presentato di Pierre Bastien, Pop, uscito per la Reflex nel 2005, con un progetto che esce invece dall'area dell'improvvisazione, improvvisazione radicale, seppur inserita dentro un aspetto quasi minimalissimo dell'esperienza nata dalla fine degli anni 90, inizio anni zero, di un'improvvisazione che lavorava molto sul suono veramente ridotto in minimi termini ed era una caratteristica fondamentale di questo progetto chiamato NM Pairing, costituito dal sassofonista Bob Rainey e dal trombettista Greg Kelly. È un progetto che in realtà poi si è spostato molto negli ultimi anni, forse anche condizionato, essendo un progetto statunitense costruito e sviluppato a Boston. Probabilmente la scena newyorkese in particolar modo, ma non solo, le scene comunque legate al nuovo noise americano hanno sicuramente influenzato anche gli NM Pairing per l'aspetto proprio che abbiamo ascoltato in questo brano mixato con Pierre Bastien. Questo è un disco uscito nel 2007, Love Me Two Times, insieme a Jason Lescalet, dove l'aspetto minimalista entra in un aspetto massimalista, entra in gioco molto di più l'aspetto del rumore, del suono potente, degli aspetti deflagranti e probabilmente anche in chiaro collegamento e incidenza rispetto alla scena noise americana. E questo sicuramente è un aspetto positivo per un progetto nato nel 98 che negli anni è riuscito comunque anche a darsi nuovi sviluppi e nuove prospettive, intrecci frequenziali, suoni sicuramente anche giocosi, ma forse più vicini al delirio che al gioco, all'aspetto appunto deflagrante, come ho detto prima, l'aspetto anche piuttosto disconnesso, e dunque un progetto che è riuscito a darsi anche gambe differenti, nuovi stimoli, nuove prospettive. Anche il disco ultimo uscito un anno fa sembra sulla stessa scia, forse ancora più fortemente rumorista, e sicuramente presto lo ascolteremo in un altro contesto. L'aspetto comunque giocoso, delirante è anche all'interno di questo lavoro, soprattutto per come vengono trattati gli strumenti acustici, in particolar modo sax e tromba, che vengono ovviamente portati alla massima quasi allungabilità del suono, rendendo il suono stridente, stridulo e quasi animale come suono. E dunque sicuramente l'aspetto da questo punto di vista dell'animazione sonora può avere un suo sviluppo e un suo inserimento all'interno del contesto di questa serata. Il disco lo ricordiamo ancora, NM Pairing, Jason Lescalet, Love Me Two Times, appunto uscito nel 2007. Io ricordo adesso, comunque, data che le pronunce di me medesimo non sono sempre particolarmente precise sia sull'inglese ma soprattutto su altre lingue, se volete avere ovviamente delle indicazioni precise e dettagliate sui dischi, sugli autori e sull'anno anche di uscita, potete andare intorno alla giornata di venerdì e sabato. Di solito inseriamo l'ultima trasmissione un giorno o due prima della domenica successiva all'interno del nostro sito, dunque potrete avere qualche informazione in più. Probabilmente in questa trasmissione verrà inserito anche un video, se non due, anche degli autori inseriti nella puntata, e dunque sempre potrete andare e ascoltare o riascoltare gratuitamente, ma soprattutto avere delle informazioni sui titoli, brani, gli autori sul nostro blog, che è sempre 451frammentisonori.noblogs.org. A questo punto siamo nel finale, verso la fine della puntata, e abbiamo deciso di chiudere con un autore che è un autore molto importante sulla scena della sperimentazione elettronica ed elettroacustica svedese. È stato anche, diciamo, attraversato in una vecchia puntata, ma non vecchissima, di qualche mese fa, dedicata alla musica sperimentale ed elettronica svedese. È un autore svedese molto importante. La scena elettronica sperimentale svedese dagli anni 50 fino ad oggi ha sicuramente fatto emergere moltissimi autori che non sono particolarmente conosciuti, ma che abbiamo cercato, ad esempio, di curare in una puntata puntata completamente dedicata a questa scena circa qualche mese fa. E in particolar modo adesso andremo ad ascoltare uno degli autori più importanti di questa scena, Åke Hodel, che ha realizzato un splendido lavoro sul piano prettamente elettronico, ma con degli aspetti anche elettroacustici e con degli aspetti anche piuttosto deliranti nell'utilizzo delle voci, dei suoni. Una produzione del 1972, non veramente in questo caso dichiaro la mia resa, perché qua è proprio svedese ed è impronunciabile, veramente il titolo è oltretutto lunghissimo, rischio di far veramente ridere. Troverete il titolo del lavoro sul nostro blog, e a questo punto chiudiamo con Åke Hodel questo percorso, con qualche, diciamo, con una sorpresina anche finale che non vi sto nemmeno a spiegare o ad anticipare. Ricordiamo che comunque Åke Hodel ha iniziato la sua attività compositiva ed elettronica, oltre che legata ad esempio alla tecnica del collage, prima con i nastri e poi successivamente con le strumentazioni digitali, è anche un autore molto interessante rispetto alle composizioni di text sound. Dunque molta attenzione ovviamente anche all'aspetto delle texture, dunque dei testi e dei parlati, e dunque una rappresentazione anche narrativa e sonora della voce, soprattutto della parola, e attraverso appunto varie sperimentazioni parallele e anche incrociate con le ricerche sonore legate all'elettronica e all'elettroacustica in terra svedese. È iniziato appunto, come dicevo, intorno al 1963 la sua attività di compositore e di musicista, e ancora oggi continua a elaborare sperimentazioni, anche se in forma molto più diradata e molto più legata, diciamo, a settori più accademici e più legati appunto all'aspetto connesso ai conservatori e ai vari istituti di musica e di ricerca. A questo punto andiamoci a sentire questo album, in particolare, anzi in maniera più corretta, questa composizione del 1972, e ovviamente con la sorpresina finale. E vi ricordo, domenica prossima, sempre dalle 23:30 circa fino alle 2:30 circa, ci sarà ovviamente la prossima puntata di 451 frammenti sonori. Probabilmente, speriamo almeno, di poter essere in coppia, in collettivo, come dico io, anche se il mio compagno di viaggi e di viaggio musicale, Max Macchia, dirà: ma che collettivo, siamo in due. Effettivamente un collettivo non si può fare in due, ma a me piace pensarlo. Åke Hodel, vi lascio dunque, vi auguro la buonanotte e ovviamente buon ascolto con questo altro viaggio sonoro svedese, in questo caso all'interno di questa puntata di Giocattoli Sonori, parte seconda, voci, rumori, deliri animati. Buon ascolto e buonanotte da Alessio Scarpa, e ovviamente vi lascerò poi, dopo la chiusura della trasmissione, con la programmazione notturna di Radio Città del Capo. Ciao. Himlen förmörkas, kra, kra, av avgasblå kråkor, kra, kra, avgasblå kråkor, kra, kra, avgasblå kråkor, kra, kra, avgasblå kråkor, kra. Döda kråkor, kra, kra, Karons kråkor. Karons kråkor. Karons kråkor. Karons kråkor. Karons kråkor. Karons kråkor. Karons kråkor. Karons Krokor. Karons Krokor. Glömskans kråkor. Glömskans kråkor. Glömskans kråkor. Glömskans kråkor. Glömskans kråkor. Sömnens kråkor. Sömnens kråkor. Sömnens kråkor. Sömnens kråkor. Sömnens kråkor. Sömnens kråkor. Dödens kråkor. Dödens kråkor. Dödens kråkor. Dödens kråkor. Dödens kråkor. Dödens kråkor. Dödens kråkor.